24 mattino. Bentornati già svegli e ormai desti, bentornati nella memoria di una grande maschera italiana. Avete sentito il bel coccodrillo del TG, Biscardi, mattatore del calcio, e sentitelo quando invocava la moviola. È gol, non è gol, è gol, non è gol, è gol, non è gol. Può venirne un aiuto alla nostra campagna. La moviola in campo, quantomeno i sensori. Come facciamo a capire che non vedeva? Che non vedeva 42 centimetri. Però, allora io dico, mettiamo i sensori, aiutiamo gli arbitri. L'arbitro l'avrebbe visto. I sensori. Sta per gol. I sensori, e io volevo solo leggere una cosa fra le tante che avete sentito e fra i ricordi che avete: un meraviglioso aneddoto di Aldo Grasso, che gli dedica un paginone Corriere pagina 41, e racconta che fra le altre cose Biscardi inventò una rubrica di critica televisiva che si chiamava Il Comandante Stopardi, ma nel senso romano Stopardi eccetera, e per darle forza mise in giro la voce che un grande critico redigeva per lui le opinioni sui programmi sportivi, e perché l'allusione fosse chiara mostrò, dice Grasso, il mio libro per un'intera trasmissione o citando un pezzo scritto per il Corriere della Sera e spacciandolo come una cosa scritta apposta per il processo. Beh, la cosa più incredibile di questa vicenda è che durante un'intercettazione Grasso querelò Biscardi, ma poi tanti anni dopo, durante un'intercettazione con Moggi che non sapeva che si trattasse di uno scherzo, si rivolse con toni perentori a Biscardi, scrive Grasso, perché mi togliesse la rubrica, e quello rispose sì. Beh, ovvio, non esisteva, non era vera. E allora, conclusione: è sempre stato difficile muovere delle critiche a Biscardi, con le buone o con le cattive. Il suo genio, da finto tonto, sapeva sempre volgere a suo favore ogni rimprovero. Ci abbiamo provato con le citazioni colte, con l'ironia, con il fioretto, niente da fare, ha sempre vinto lui. E riconosco che Biscardi è stato l'inventore del calcio parlato, non importa se a spese della grammatica. E adesso passiamo alle urla. Iglesias scontestato in Spagna. Viva la Spagna a Pablo Iglesias, il leader di Podemos, che ha cercato di mediare fra indipendentisti e unionisti. Allora, Corriere della Sera apre: Vargas Llosa, no al golpe catalano, di Andrea Nicastro e Elisabetta Rosaspina. La Stampa: falchi dell'Unione Europea contro gli sconti all'Italia, questo è molto interessante. Il Giorno, clamoroso: morirò nel container, sfrattata la casetta di legno a 95 anni, nonna Peppina è costretta a vivere in una scatola di ferro. Il Foglio: schiavitù di parola, ovviamente sapete che questo è il settimanale. Un pezzo da ritaglio, poi vi diremo perché. Ecco la mappa dei reati: 284 denunce ogni ora, il Sole 24 Ore. Espulsioni, il piano del Viminale, Messaggero. Il Fatto apre su Pisapia sfascia la sinistra, molto schierato in questa scelta. Anche Repubblica su Pisapia: la scelta di Pisapia, sinistra di governo, si allontana da MDP, rischiano di fare il partito del 3%. Dialogo con il PD, Gentiloni ha un profilo altissimo. La Gazzetta, meravigliosa intervista a Sarri, il trono di Sarri, è un Sarri tipo trono di spade, che racconta la sua vita e i suoi sogni per lo scudetto. Il Giornale, i 50 compagni di Battisti che se la godono all'estero. Apertura diversa, sempre interessante, sui latitanti all'estero. Libero: antifascisti sanguinari, hanno voglia di uccidere. Alla manifestazione partigiana di Milano, i marxisti dicono di voler ammazzare quelli di destra. Il Tempo, buco nei conti da 200 milioni, il flop delle case statali in saldo. Il Corriere dello Sport apre su Edin Dzeko, le stoccate di Dzeko, il centravanti a Roma ha calciato in porta più spesso di tutti, 7 gol senza mai un rigore. E va bene, addio Biscardi anche sul Corriere, ovviamente portò in TV il bar dello sport, e questo è sicuramente vero. Ma vi dicevo della Catalogna, è stata la giornata della grande rivincita di quelli che vogliono e sognano una Catalogna ancora unita alla Spagna. Ci sono ovunque foto con le bandiere rosse e gialle. E allora qui merita di essere letto il pezzo che racconta cosa è successo. Nicastro, il corrispondente: l'onda unionista conquista Barcellona, siamo 1 milione, fermeremo i golpisti. In piazza la maggioranza silenziosa anti-indipendenza, l'arringa dello scrittore Mario Vargas Llosa, Puigdemont non arretra. E vi dicevo... Ha detto lo scrittore, scrive Nicastro, riferendosi al presidente catalano, al suo vice e alla presidente della Camera catalana: la passione può essere pericolosa quando risveglia fanatismo e razzismo. E la passione nazionalista è la peggiore di tutte le passioni. Qui, dice Vargas Llosa, citato da Nicastro, si sono riuniti cittadini pacifici che credono nella coesistenza e nella libertà. Dimostreremo a quella minoranza indipendentista che la Spagna è un paese moderno. E allora molti si chiedevano: vabbè, ma insomma, perché sta accadendo tutto questo in Spagna, in Catalogna, in Barcellona? È perché ci sono due popoli, e sono due popoli entrambi molto numerosi, ed entrambi sostengono di essere maggioranza. Allora, passiamo dalla Catalogna e andiamo a seguire questo romanzo di Pisapì. Pisapia se n'è andato, vi ho detto che Il Fatto lo graffia, Repubblica lo esalta, e allora bisogna trovare in questo opposto sentire un punto medio. Che cosa è successo? Missione compiuta, dopo mesi di fumo, Il Fatto, fallisce il piano di Giuliano Tentenna. E Asor Rosa, un grande intellettuale della sinistra italiana, interviene, rompe il suo silenzio e dice a Antonello Caporale: restare uniti sarebbe stato sfidare Newton. Non ci si può alleare con il PD, fa politiche di destra. Questo dice Asor Rosa, spiegando come la vede lui al Fatto. E Pisapia, addio a MDP, cioè ai bersaniani, cioè alle altre formazioni sinistra italiana, è possibile, a sinistra nascerà un nuovo partito. E vai, era nato per unire. Invece vi dicevo, su Repubblica, la scelta di Pisapia, vado con la sinistra del governo, Cappellini e Ciriaco, si allontana dai bersaniani, rischiamo di fare il partito del 3%. E, è molto interessante la mappa di Ilvo Diamanti, il PD ha 10 anni, ma ne dimostra molti, molti di più. E noi Dem non strattoniamo Giuliano, dice Maurizio Martina, vice segretario del PD, ci unisce sapere chi sono gli avversari. L'intervista di lui, del protagonista Pisapia, loro rimprovera, loro sarebbero i bersaniani, hanno cambiato strada, io farò una sinistra di governo, Gentiloni ha un profilo altissimo. Sembra veramente una telenovela in cui ogni giorno fino ad oggi i protagonisti hanno oscillato dicendo prima una cosa e poi l'altra, ma gli abbiamo dedicato già troppo tempo, perché invece dobbiamo andare a Di Maio. Sul Corriere della Sera annuncia che la sua squadra di governo, la sua squadra, che cos'è questa cosa che scompare? La sua squadra di governo, pensate, avrà 4 su 5 esterni tecnici, non del movimento. E poi aggiunge che uno dei nomi che sono indicati sarà quello del PM Di Matteo. E ecco qua il passaggio: figure esterne ai 5 Stelle, personalità di altro profilo sceglierò, con una storia professionale alle spalle, in grado di eludere qualsiasi tipo di contestazione sia dentro il movimento sia da parte degli avversari politici. L'esempio di Nino Di Matteo, indicato già da tempo come potenziale ministro dell'interno pentastellato, che a luglio ha dichiarato di non escludere un futuro in politica. E questa è una cosa grossa, perché si stanno girando le carte della partita finale, la partita delle politiche. Allora, Di Battista. Perché mi interessa Di Battista? Perché anche lui sul Corriere della Sera, sempre pagina 5, leggo il pezzo di Franco Stefanoni. Ecco, dicevo, dice che la priorità adesso è suo figlio, ma poi dice anche il Rosatellum è un colpo di Stato. Lo abbiamo sentito da Lucia Annunziata domenica pomeriggio, e sicuramente questa presa di posizione dice che Di Battista fa il padre, ma continua ad essere lì. Allora, Ius Soli, un'intervista un'intervista importante su Repubblica, Francesco Merlo, pagina 3, quella di Renzo Piano, uno dei più famosi architetti italiani, prende una posizione molto netta e dice che lui è a favore della legge, e lo fa invocando lo sguardo dei bambini. Chiedete chi sono? Chiedetelo ai vostri figli, quelli che li guardano negli occhi e che sanno chi sono. Allora sentite. Il no è crudele, quei bambini sono italiani, lo dicono i loro amici. Quei piccoli, dice Renzo Piano, intervistato da Francesco Merlo, io li ho visti nelle scuole, con i loro occhioni studiano una Costituzione che però non li accoglie. E poi, la civiltà, dice Renzo Piano, si costruisce pietra su pietra, le migliori leggi sono imperfette e, vedi, divorzio, hanno cambiato la nostra storia. Meteo! Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma mi volete rilassare? Mannaggia. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Qualsiasi cosa tu faccia, di che sei di sinistra. D'Alema gliel'ha consigliato. E io lo faccio anche se non mi viene naturale come viene a lui. Faccio una fatica boia chi molla. No. Era il Pisapia, il Pisapippa di Crozza. Grandi tradizioni. Che canta. Tutti militari e tutti fascistoni. Per un compagno incontra e un dì e lui mi E torniamo alla rassegna. Stavamo parlando dello Ius Soli. C'è una storia incredibile sul Corriere di oggi. Riccardo Bruno, pagina 20. Ragazzino iracheno muore in ospedale, non è stato accolto. Che cosa è successo? Era a Bolzano in Italia con i suoi da 10 giorni, disabile. Era in attesa, pensate, del permesso umanitario, che a volte arriva in alcuni casi quando dovrebbe arrivare, come il suo, completamente paralizzato e tetraplegico. Non era arrivato, è caduto dalla carrozzina, gli è venuta una doppia frattura, è stato ricoverato, ingessato, scrive Bruno, entrambe gli arti inferiori, è stato cercato di medicare, ma la sera di sabato la febbre è salita, era in atto un'infezione, i medici non hanno avuto il tempo di fermarla, è morto. E va bene. Morirò nel container, invece, dice la mitica Giuseppina, mitica perché con la sua normalità, col suo coraggio, nonna Peppina ha chiesto di vivere nella casetta di legno che era stata costruita, mancava un'autorizzazione paesaggistica, a tempo di record nel paese dell'abusivismo è stata demolita la sua casetta. E allora lei dice: sono delle bestie. Leggo dal Giorno, pagina 2. Sono le bestie. Peppina Giuseppa Fattori lascia la casetta di legno e non fa sconti a nessuno, specialmente a chi l'ha fatta andare via. È stata costretta a lasciare a 95 anni l'abitazione che le figlie hanno fatto costruire per lei a San Martino di Fiastra, a 2 passi dalla casa dove era entrata da giovane sposa, inagibile dopo il terremoto. Ieri è scattata l'esecuzione in sequestro. La casetta è stata dichiarata abusiva, manca il vincolo e il ricorso al tribunale del riesame è stato respinto. Ora resta il tentativo del ricorso al TAR. Io prego tanto, prego per chi mi vuole bene e anche per chi mi vuole male. Mamma mia, casette con le ruote, l'ultima trovata per evitare lo sfratto, sempre a pagina 3, bellissimo il racconto di come alcuni terremotati devono mettere le casette di legno sui moventi per evitare di incorrere nella vicenda di Giuseppina. Allora, stavamo parlando di notizie di cronaca e il Corriere ce ne dà un'altra che impressiona, arriva da Palermo. Non a Ballarò, non un mafioso, non un criminale, ma una donna, una ragazza, Alessandra, 20 anni, uccide per uno schiaffo al padre. Bellissimo l'incipit del pezzo di Felice Cavallaro. Bisogna aver visto Via Castellana Bandiera, il film di Emma Dante, una palermitana che indaga e scava nel ventre e nella psicosi della sua città per capire come la follia dei rapporti rancorosi fra nuclei familiari possa radicarsi in una stretta viuzza, in un vicolo, in una piazzetta, facendo esplodere tutte le rabbie interne con un colpo di pistola. Mola. Se volete leggetevi questa cronaca, perché Cavallaro ha scritto veramente molto bene. I latitanti. Dicevo che Zurlo sul giornale fa un elenco di tutti quelli che sono scappati, e pensate, la metà di questi sono quelli del comando di Aldo Moro. Vi leggo i nomi: Stefano Zurlo, pagina 3. I terroristi condannati e fuggiti: Giorgio Pietro Stefani per l'omicidio Calabresi, Marina Petrella, Ergastolo per l'omicidio di un poliziotto arrestato a Parigi nel 2007, Maria Cappello, Enrico Villimburgo, e poi eccoli quelli di Moro: Alvaro Lo Iacono, Alessio Casimirri, che ha aperto, pensate, in Nicaragua il ristorante Magica Roma, Simonetta Giorgieri, Carla Vendetti e Sergio Tonaghi. Non bisogna dimenticare troppo, non bisogna dimenticare. Però andiamo al Money. Scontrinometro. Secondo me Oscar oggi ha trovato pane per i suoi denti, fra poco arriverà il gattone, allora voglio dirvi che si è fermato lo scontrinometro. Voi dite, ma che cosa doveva essere, una nuova tassa? No, doveva essere una specie di lotteria per rendere gradevole la richiesta dello scontrino. Ebbene, ci racconta Lorenzo Salvia che il governo fa marcia indietro, rinviata la lotteria degli scontrini, niente debutto a gennaio, il software era in carico a Sogei, la società dello spesometro, e allora lì si sono fermati. E pensate come funzionava: ogni tot di euro spesi, racconta Salvia al Corriere pagina 17, si ottiene un numero per partecipare all'estrazione una volta al mese, e i premi in palio? La decisione finale non era stata ancora presa, ma erano state scartate le auto di lusso utilizzate nelle prime estrazioni della fattura da sorte, la lotteria degli scontrini inventata qualche anno fa in Portogallo, e si pensava ai viaggi di lusso, ma solo sul territorio italiano, per far girare i soldi comunque nel nostro paese. Niente, io lo sognavo, non c'è sta lo scontrinometro. Allora, La Stampa, pagina 17, vedete le coincidenze, RCA Auto, è un grande racconto sull'Italia, quello che si può fare attraverso i premi delle assicurazioni, sì, perché vedi la diversità del paese, tutto soldi, Ecco come risparmiare con lo slalom fra franchigie e premi. Consigli agli esperti: cercare i migliori prezzi sul sito di comparazione, gli sconti sul web. Ma il dato che mi interessa è questa bella tabella di Sandra Riccio, La Stampa, pagina 17. Regione che vai, premio che trovi. Pensate, a parità di monte assicurato, in Campania si spendono 989 euro, in Lombardia 472. Stiamo parlando del doppio. Web tax. Allora, web tax è stata stabilita, vogliono l'8%, vogliono far pagare l'8% di quello che guadagnano alle multinazionali del web. E vi sembra tanto, vi sembra poco? Ne parleremo sicuramente con Giannino, ma il dibattito è aperto, e ovviamente trovate questa notizia sul Corriere, pagina 2 dell'economia. Invece la cosa straordinaria che secondo me bisogna ritagliare è questa mappa incredibile dei reati, da cui esce fuori che tutto quello che abbiamo raccontato, la violenza percepita, è, almeno dal punto di vista statistico, un errore. Ecco la mappa dei reati, Corriere, pagina Sole 24 Ore, pagina 1, 2 e 3. 284 denunce ogni ora, ma pensate, nel 2016 si conferma il calo generale di tutti i delitti. Non solo, calano anche furti, scippi e rapine. Crescono però usura e frodi informatiche. Michele Finzio ci racconta che cosa è successo. Quasi 7.000 reati vengono commessi ogni giorno in Italia, un dato in calo del 7,4% su base annua, che consolida la flessione già registrata nei primi due anni precedenti. Quindi cala su un calo. A dirlo sono i dati forniti al Sole 24 Ore dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, riferiti ai delitti denunciati in tutto il 2016. Il generale arretramento riguarda quasi tutte le tipologie di illeciti, scippi, borseggi e frazioni, a eccezione delle truffe e delle frodi informatiche che crescono del 4,5% e dell'usura, pensate, che sale del 9%. Allora, se volete questa mappa italiana che ogni cittadino dovrebbe conoscere, pagina 2 e 3, ritaglio. È rimasto qualcosa di importante da dire? Sì, perché Zeman, pensate, firma sul Corriere della Sera, trovate la notizia a pagina 22, per il rito abbreviato. Questa petizione nasce da una vicenda che riguarda lo sport, ma la cosa divertente è la motivazione di Zeman, che dice sì, rito abbreviato, e sono cattivo chi ha sbagliato paghi. Lo racconta Nicola Catenaro. Ci sono le leggi e vanno rispettate. Certo, si può sempre farne altre per evitare che ci sia la certezza del diritto. Chissà se le parole pungenti di Zeman, allenatore del Pescara Calcio, pronunciate con l'abituale tono sornione mentre firmava la petizione, hanno aiutato il tantam. Beh, sicuramente sì, perché Zeman è un riferimento non solo per il mondo dello sport. Guevara, sapete che l'8 ottobre nella scuola della Iera in Bolivia veniva ucciso il comandante che ha segnato la leggenda, amato da alcuni, odiato da altri, ed ecco che sul Tempo e sul Giornale viene definito da due editoriali, quello di Alessandro Sallusti che lo definisce addirittura un criminale, Che Guevara. Aprendimos a quererte. E a pagina 21 del, per chi volesse leggere posizioni antigavriste, a pagina 21 di Libero del Tempo interviene Veneziani. Entrambi si scatenano contro il comandante, dicono che era un assassino, che era un criminale. Però la domanda è, scusate, ma allora anche Garibaldi, cioè chiunque lotta per un'indipendenza di un popolo, spara e uccide. E questo è quello che accadde nel 67 in Bolivia con il Che. Allora Biagi, bisogna ricordarlo, sul Corriere della Sera, la presentazione di un libro in cui parla per la prima volta anche la segretaria, ed è un ritratto molto bello. Il Corriere ricorda una sua grande firma con le parole di questa donna. A me piace ricordare una cosa che pochi ricordano, che Biagi ebbe un momento di grandissima disgrazia e fu mandato via e costretto a ripartire da zero. Pensate, aveva una rubrica della posta, come racconta la sua segretaria, su tutto soldi. Passò questo anno, racconta Gian Giacomo Schiavi, in grande difficoltà, poi lo assunse il Corriere, ricominciò la Rai e ripartì tutto. Allora, chi vuole, il libro che racconta la vita di Biagi, pubblicato da Liberti, non perdiamoci di vista, ed è un segnale. Strade, ricordatevi per chiamare 2349-238-6666 e il numero verde fra poco, quando arrivano le telefonate, 800-24-0024. Cimici, calpestate senza dignità! Bentornati, eccoci, 349-238-6666, tanti commenti che arrivano, qualcuno dice ma cosa c'entra la vicenda del ragazzo, è caduto, è morto, è stato solo un incidente, no, ma il problema è che non aveva avuto, nonostante questa grave paraplegia e questa grave forma che lo affliggeva, non aveva avuto il permesso, il salvacondotto, e quindi questo mi colpisce perché lo diamo a tanti. Allora, la mitragliata inizia così. Sul Tempo, a pagina 5, grande idea. Manuel Fondato si preoccupa, dopo le dimissioni di Bubbico, di vedere dove sono finiti tutti quelli delle poltrone saltate. Porte ginevoli, i 23 trombati della legislatura, c'è chi è stato risarcito e pensate, c'è chi, come l'ex ministro delle autonomie locali, è finito a fare, è tornato a fare la farmacista. Vai. raggiro d'amore, raggiro d'amore. A pagina 41 sul Messaggero si racconta di un militare che ha totalmente plagiato, irretito, bella questa parola che recuperiamo, una donna per truffarle 1,5 milioni di euro. Condannato, un carabiniere quarantenne, pensate, si è messo a ammaliare un'anziana di 75 anni, si è fatto intestare beni, immobili e denaro per oltre 2 milioni. Secondo i giudici, l'uomo ha abusato del fascino che esercitava sulla donna, vedova di un generale dell'arma. Gli hanno dato 1 anno e 4 mesi, troppo poco direi. Sempre sul Tempo, questo è interessante. Lo Stato si vende le case, buco nei conti però da 200 milioni, le case in saldo sono state un grande flop. Pagina 2 e 3, un'inchiesta di Mary Tagliazucchi, il problema è questi alloggi che non sono stati venduti. Di tutto il patrimonio si è riuscito a cedere, pensate, solo l'8.6%, la maggioranza a Roma. Questa è veramente incredibile. Il Giorno, pensate, a pagina 19 c'è il racconto di questa vicenda, una gara di oche, io non sapevo neanche che esistesse, il palio delle oche, blitz animalista al palio, è una tortura, gridano, tafferugli, scontri, pagina 19, feriti 2 militari. Ma allora dici, le torturavano? No, le facevano correre e queste oche correvano. Questa vicenda ha prodotto scontri, militari contusi sono stati medicati sul posto dal personale del 118, sì, ma non dovrebbe accadere, no? Allora, sul Giornale inveisce, devo dire giustamente, Giordano Bruno Guerri, una grande articolessa, una pagina, pagina 24, lo storico giornalista, nostro collega, perché pensate che in New York è tornato anche lui, la celebre rivista africana, americana, a chiedere di abbattere l'EUR. Perché in Italia ci sono ancora quei palazzi? E come dice Giordano Bruno Guerri, la miglior prova di antifascismo è garantire la libertà e conservare le opere del passato, perché non siamo talebani. Le segretarie furibonde perché non vogliono la definizione, erano segretari d'aula, di segretari, che viene dall'onomastica della Boldrini, questo è interessante. E poi la vicenda di Del Rio sul Libero, a pagina 11, oggi è il giorno di Del Rio, inizia il suo sciopero a staffetta che inizierà oggi e finirà oggi. Sapete come la penso, non credo sia una grave ed eroica impresa, non tanto per la motivazione ma per la modalità. Un ministro che sciopera contro il suo stesso governo. La notizia che veramente fa arrabbiare oggi è sul Giornale, a pagina 11. Allora, dovete sapere, l'abbiamo letto, è una cosa che ci appassiona, scusate, a pagina 13, Sara Mauri, che in Arabia Saudita è stato abbattuto il divieto di guida per le donne. E allora è accaduto che un uomo, Faisal Bagudaish, posta su Twitter, racconta Sara, una foto di lui e sua moglie mentre fanno la loro lezione di guida. Lei guida, lui la insegna. Nel tweet di Faisal, un ingegnere che lavora come analista in una società di gas e petrolio, si legge: ho iniziato a guidare con mia moglie. Ebbene, sapete che è successo in Arabia Saudita? Tonnellate di insulti, vergognatevi, non ti senti in imbarazzo, ma ti rendi conto che hai fatto vedere la sua faccia? Ragazzi, l'Arabia Saudita, paese alleato dell'Occidente, mamma mia. Ci fermiamo qua e torniamo dopo il GR con i cani e con i gatti. Dai, ulula, Oscar. Ma non voglio ulula.